Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e come sapete anche della domenica con i magazine, con le riviste, riviste italiane, riviste straniere. Andiamo curiosando qua e là in cerca di articoli meritevoli di segnalazione per i motivi più diversi, anche solo per il piacere di leggere naturalmente, che poi è la prima cosa che ci guida, è il primo motivo che ci guida. Allora, io non so quanti di voi se ne siano accorti, personalmente devo fare ammenda, non me ne sono accorto ieri, ma ieri si è celebrata la giornata internazionale dell'uomo inteso proprio nel senso di individuo di sesso maschile. L'ho scoperto sfogliando Vanity Fair, perché a Victoria Cabello è stato chiesto nella sua rubrica L'ospite di parlare di questa giornata internazionale dell'uomo. Devo dire che la presentatrice, insomma, ha avuto anche le sue difficoltà e possiamo comprenderla, perché davvero un po' la moltiplicazione di queste giornate a tema, un po' davvero il tema in sé, non sembrava aver portato grande ispirazione, grandi manifestazioni. Comunque lei ha scelto un taglio abbastanza divertente, per questo ve lo segnalo e lo segnaliamo: un po' spaccalegna e un po' gay, così maschio ti vorrei. Questo è il titolo che hanno affibbiato alla rubrica di Victoria Cabello, speriamo che lei ne sia stata contenta. E poi ricorda appunto il 19 novembre è stata meglio ormai la giornata internazionale dell'uomo, uomo che tra doppio petto asessuato e bunga bunga è un po' confuso, e effettivamente c'è da confondersi. Viene anche riportata una dichiarazione rilasciata da Renato Zero qualche giorno fa al Corriere, in cui ha detto: l'uomo è conquista, possesso, competizione, disponibilità senza limiti, essere uomini è un impegno massacrante. Quindi forse da questo deriva un po' di rivalutazione anche per noi altri di sesso maschile, siamo sempre molto più attenti naturalmente alle rivendicazioni di tipo femminile. Leggo qua e là dalla pagina appunto di Cabello su Vanity Fair. Io apprendo che l'International Men's Day, questo è il nome in inglese, è stato inaugurato nel 1999 a Trinidad e Tobago con il sostegno delle Nazioni Unite, e è stato inaugurato come un'occasione per concentrarsi sul miglioramento delle relazioni di genere, promuovere l'uguaglianza tra i sessi, dare agli uomini l'occasione per evidenziare la discriminazione nei loro confronti. È testuale, sto leggendo appunto quello che riporta Victoria Cabello. Capisco quindi, prosegue Cabello, che in Italia si senta poco la necessità di ufficializzare questa festa, il paese è ancora tremendamente maschilista. Ci sono solo due campi in cui gli uomini sono veramente discriminati. Uno è l'affidamento dei figli in caso di divorzio, l'altro è la carriera politica. Qui ironizza la Cabello, dice: non mi risulta che nessun ballerino sia arrivato a ricoprire cariche pubbliche senza dover fare nemmeno un giro di campagna elettorale. Dopodiché prosegue con una serie di consigli, scopre tra l'altro e ci fa sapere che c'è già una festa dell'uomo in Italia che si dovrebbe celebrare il 2 di agosto. Devo dire, neanche di questa avevo assolutamente conoscenza, ma l'ho preso appunto in occasione di questa giornata internazionale dell'uomo. E poi conclude la rubrica con un dubbio, dicendo: è possibile che la confusione perenne in cui vivono i maschi dipenda proprio dal fatto che di giorno noi donne li vorremmo quasi asessuati in un doppio petto d'acciaio, mentre a casa continuiamo a desiderare di essere rapite e travolte dalla passione? Forse il 19 allora potrebbe essere il giorno del pirata o del pompiere o dello spaccalegna, insomma dell'uomo come lo sogniamo. Non credo che sia dipeso dalla circostanza appunto di questo 19 novembre, ma su Donna Moderna si dà una lettura un po' trasversale, curiosa, del noto film e più che citato film The Social Network dedicato a Facebook. Perché dico una lettura particolare? Perché nell'articolo di Mattia Carzaniga si parla di rivincita dei nerds. I nerds queers è un termine inglese, americano di origine, per indicare quello che potremmo tradurre con il secchione, ma anche un po', volendo, se mi scusate il termine, un po' lo sfigato. È di solito l'adolescente molto bravo, magari in alcune materie non così popolari, come potrebbe essere, che so, l'informatica avanzatissima, la fisica, la matematica, insomma cose decisamente astratte spesso, o comunque non immediatamente utilizzabili, ecco, e però di poca fortuna così poi nelle relazioni sociali, nelle relazioni interpersonali. Perché la rivincita dei nerds e perché The Social Network, l'unione? È questo che è appunto la cosa curiosa dell'articolo di Carzaniga. Dice, racconta appunto la storia di Zuckerberg come perfetta parabola di rivincita sociale del nerd, ex studente bruttino, decisamente poco cool, cioè poco attraente, poco alla moda, abbigliato con felpone, ciabatte da piscina anche in pieno inverno. Mark Zuckerberg è oggi il più giovane miliardario del mondo, con un'azienda il cui valore è stimato attorno ai 30 miliardi di dollari. E tra l'altro il film, che oramai a furia di leggere nelle riviste ci sembra quasi anche di averlo un po' visto, ma il film comincia proprio con una ragazza che tratta malissimo uno Zuckerberg non ancora famoso né miliardario, scuserete l'ironia involontaria di questa precisazione, dicendogli: diventerai un genio del computer, penserai di non piacere alle ragazze perché sei uno sfigato. Voglio dirti dal profondo del mio cuore che non è così, non piacerai alle ragazze perché sei uno E qui, diciamo, viene dato un epiteto poco gentile al futuro miliardario. La ragazza, immaginiamo che ora abbia qualche rimpianto per la conclusione così brutale di questa relazione, vista poi come è andata a finire invece la vicenda di Zuckerberg nella vita e nel successo. Ma torniamo a Carzaniga, che appunto dice, in fondo The Social Network indaga proprio su questo delicato passaggio socio-esistenziale, la favola del brutto anatroccolo che trova la sua versione high-tech, di alta tecnologia, nella storia dei maghi dell'informatica che oggi governano il mondo, che finiscono sulle copertine dei magazine più prestigiosi, che diventano modelli di vita per milioni di giovani. Da lì, infatti, poi Carzaniga trova altri esempi di, come dire, nerdizzazione, o comunque di posare da nerd, atteggiarsi da nerd, oltre ad altri nerd di successo. Dice ad esempio che anche per il lancio del film, uno dei belli che vengono utilizzati, Justin Timberlake, si è un po' vestito, dice, da nerd, molto al passo con la moda: giacche da collegiale, occhiali da vista big size, quindi molto grandi, che sono tra i must, sono oramai un particolare fisso delle ultime collezioni. Restando proprio sugli occhiali, la montatura spessa, che fa molto appunto nerd, è un trend in crescita, così scrive. Oggi la indossano dive e divette, dalla neosposina Katy Perry a Isabel Lucas, passando per Demi Moore e anche per la star molto mio, per Scarlett Johansson. E, insomma, la conclusione è che gli sfigati dettano nuove mode, e infatti c'è anche un serial che sta girando, non in Italia, che si chiama La teoria del Big Bang, su un gruppo di fisici e ingegneri che sono alle prese con una bella bionda che viene a vivere nell'appartamento di fronte a loro. Una specie di variazione sul tema, spiega Carzaniga, sul tema della pupa e il secchione. Allora, abbiamo parlato un po' scherzosamente dei rapporti tra i sessi, adesso vorrei invece dire una cosa un pochino più seria a proposito delle donne. L'Italia l'hanno fatta le italiane, lo apprendo sempre da Donna Moderna, perché c'è un libro che si chiama appunto Le italiane, e che racconta le storie di donne che sono state determinanti per la storia appunto d'Italia. Cristina Colli, nel presentare questo libro, ricorda Luisa Spagnoli, imprenditrice che vuole un nido aziendale negli anni 20, Nilde Iotti che lavora per dare la pensione alla casalinga negli anni 50, e così via, passando poi per i Nobel, Grazia Deledda, per Rita Levi Montalcini, per Sara Simeoni, e poi attrici famose, tutte raccontate, spiega Cristina Colli, sfatando gli stereotipi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Nella prima parte abbiamo parlato di uomini, di donne, di rapporto anche tra i sessi. Allora chiudiamo un po' il cerchio parlando della famiglia, parlandone in un modo molto serio. Lo fa Famiglia Cristiana, Renata Maderna su Famiglia Cristiana. Il piano famiglia parte in salita. A che cosa si riferisce? Si riferisce alla poca sensibilità, alla troppo poca sensibilità della politica e in generale, diciamo, anche delle istituzioni nei confronti della famiglia e dei sostegni necessari alla famiglia. L'attacco già dell'articolo è molto duro, dice: nel nostro paese sono i figli che rendono povere le famiglie. Chiaramente è paradossale. Anche se sono passati giorni dalla Conferenza Nazionale della Famiglia, si è tenuta a Milano tra l'8 e il 10 novembre, rimane forte e purtroppo prevedibilmente valida a lungo la lapidaria affermazione di Pierpaolo Donati, che è il direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale della Famiglia. A lui appunto si deve questa frase paradossale: nel nostro paese sono i figli che rendono povere le famiglie. Ma perché si dice questo? Viene spiegato nel prosieguo dell'articolo proprio dalla collega Maderna. L'urgenza di un cambio di passo deciso di fronte a politiche familiari del tutto insufficienti e inique è stata evidente ancora una volta quando, tabelle alla mano, Donati ha sottolineato i tassi italiani di povertà familiare, che sono i più elevati a livello europeo. La tanto invocata sussidiarietà nel nostro paese funziona a rovescio. Sono le famiglie a finanziare il debito pubblico e a sostenere il peso di uno Stato molto costoso e poco efficiente nei servizi, essendo diventate di fatto il più importante ammortizzatore sociale. E altrettanto secco è stato poi Donati nell'usare il termine Cenerentola per ricordare che l'Italia, rispetto alle spese per la famiglia, si colloca molto molto indietro rispetto ai suoi concorrenti europei. 1,2% del PIL spendiamo per le famiglie contro una media europea di 2,19%. L'assioma Italia come paese che dimentica le famiglie è stato poi ribadito resistendo, spiega Maderna, alle osservazioni del ministro Maurizio Sacconi, che ha voluto però definire spese per la famiglia anche i 16 miliardi che l'INPS dà per i non autosufficienti, i 110 che vengono dati per il Servizio Sanitario Nazionale, i 62 che sono stati in qualche modo dati o risparmiati per l'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Insomma, allargando, diciamo, il perimetro, andando a considerare delle spese che non sono battezzate come spese per la famiglia, ma che poi fanno parte più genericamente di quello che chiamiamo welfare, cioè politiche di sostegno. È un dato di fatto però che l'indice di povertà delle famiglie italiane con figli risulta il doppio di quello dei nuclei senza figli, ed è quello che viene appunto ricordato anche da Renata Maderna. Se volete poi trovare ulteriori numeri e come dire, ancora meglio declinato questo grido di dolore delle famiglie che reclamano un'attenzione anche legislativa maggiore, vi rimando all'articolo di Renata Maderna su Famiglia Cristiana di questa settimana. Parliamo di una cosa che accade in famiglia e che ho visto su Donna Moderna. Nella pagina in cui si mettono a confronto sempre Maurizio Ferraris e Roberto Re su un tema, si affronta un argomento che spesso è comune nelle famiglie per chi naturalmente può affrontare questo tipo di problema, perché sto parlando di riprendere la colf, la collaboratrice domestica. Chi si appoggia a una collaboratrice domestica, devo dire, non è più neanche tanto una questione di censo, perché la necessità di lavorare tutti per poter mantenere appunto la famiglia ha fatto sì che si sia diffuso molto questo utilizzo appunto delle colf. Ecco, ma come si fa a sgridare in qualche modo a riprendere la colf? Perché sembra una cosa facile, poi in effetti il rapporto con queste persone è sempre delicato. È stato chiesto il consiglio sia di Maurizio Ferraris, che è un filosofo, e sia di Roberto Re, che è un personal coach, cioè un signore che aiuta in qualche modo a superare le difficoltà della vita di relazione, la vita quotidiana. Allora, cosa dire alla colf quando non lavora come vuoi tu? Certo, dice Ferraris, non per un'altra che mi fai, ti licenzio, te ne vai. Era il ritornello di Sor Pampurio nel Corriere dei Piccoli di molti anni fa. Dice: questo è un residuo di epoche padronali di cui non sentiamo nessuna nostalgie che comunque erano caratterizzate da una sovrabbondanza di personale che rendeva un licenziamento sicuramente traumatico per chi veniva licenziato, mentre oggi il licenziamento rischia di essere traumatico per chi licenzia, perché appena cacciata la colf insufficiente si fa avanti infatti l'interrogativo: che ne sarà di me adesso che la colf non c'è più? Allora, consiglia Ferrari, se il rimedio migliore è l'esempio, fate voi stessi vedere come si fa, vedrete che poi la collaboratrice, il collaboratore domestico vi imiterà con reciproca soddisfazione. Il problema, casomai, ammonisce Ferrari, è che oggi non si sa più sempre come si fa. Questo vale sia per le donne che per gli uomini, che singolo separati si trovano a fronteggiare direttamente la colf avendo solo come conoscenza qualche vago ricordo di infanzia. Poi dice: nello scontro diretto poi è la colf che spesso ha la meglio, perché ha il controllo degli strumenti tecnici. Allora, se nella dialettica non potete prevalere, consiglia Ferraris, per competenza, non cercate assolutamente di prevalere per prepotenza, ma piuttosto puntate sull'importanza dell'aiuto che questa persona vi dà. Di altra natura, ma non così lontano, il consiglio di Roberto Re, che dice: in primo luogo armatevi di pazienza, poi trasmettere fiducia, perché conta molto non solo quel che si dice ma anche come lo si dice. Quindi, se dalle parole che diciamo traspare fiducia, comprensione, aspettative positive, l'interlocutore sarà messo nelle condizioni di fare il meglio. E poi un consiglio che forse si può estendere anche al di fuori di questo ambito: aspettate ma non troppo. La regola, dice Re, del 5/24, se bisogna far notare alla colf, perché in questo caso si parla della collaboratrice domestica, qualcosa che non va, ditelo non prima di 5 minuti, ma non oltre le 24 ore. Non prima di 5 minuti perché si rischia di essere precipitosi, non dopo le 24 ore perché altrimenti la correzione a freddo diventa poco efficace e si rischia di essere ancora più emotivi se si è rimuginato troppo sull'accaduto. Allora, non è che poi questo tipo di contrasti debba risolversi male, anzi la maggior parte delle volte si risolve bene, però io vi voglio lo stesso avvisare che stiamo proponendo in edicola una guida alla mediazione civile. Ora, la mediazione civile che cos'è? È un rito alternativo, cioè dovrebbe essere un modo in cui riusciamo a evitare di ricorrere al tribunale, perché tutti sappiamo che le cause civili in Italia durano anche 10 anni, i tempi delle sentenze sono troppo lunghi. Allora, finalmente il legislatore ha stabilito che dal 20 marzo del prossimo anno partirà una rinnovata mediazione civile, cioè la possibilità di evitare appunto le cause e di poter trovare una composizione non giudiziale, come si dice in gergo. Se volete saperne di più, per chi se ne occupa ma anche per chi è solo curioso della materia, vi rimando alla guida di Guida al Diritto che vendiamo con Il Sole 24 Ore in questi giorni, 6,90 euro, da abbinare sempre al nostro quotidiano, cioè al Sole 24 Ore. Con questa segnalazione si conclude la puntata di oggi. Ringrazio Anita Panizza che mi ha aiutato a prepararla, ringrazio Filippo Aureggi e Paolo Corleoni che si sono alternati in regia. Magazine 24, come sapete, ritorna domani.